A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi torniamo a parlare di calcio con le seguenti modalità. Prima di Coppa Campioni e tornei esteri, come sempre ogni martedì in compagnia di Fabio Tavelli, e poi di campionato con voi e i vostri interventi in diretta all'800 24 00 24. Buongiorno caro ministro. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, intanto la proiezione è su stasera e su domani sera, ma stasera urge, e quindi Barça-Chelsea con il Barcellona chiamato a fare, non dico un miracolo, ma qualcosa di simile, perlomeno un'impresa. Chi l'avrebbe mai detto, non dico una settimana, ma qualche tempo fa? Ma sinceramente una settimana fa, nel senso che le partite erano comunque complicate, tutti noi pensavamo che non fosse una passeggiata, il classico, lo avevi detto tu settimana scorsa, io anche ero d'accordo nel senso di vedere un momento più favorevole per il Real Madrid. Beh, un conto è dirlo, un conto è poi vederli all'opera. Certo. Diciamo che le partite sono state molto diverse, il Barcellona non perdeva due partite consecutive da una vita, e già questo è un dato importante, e io onestamente penso che non perderà la terza, ma potrebbe non bastare non perdere, perché il Barcellona deve vincere e deve farlo possibilmente non prendendo gol. Onestamente le partite sono molto diverse, cioè la partita contro il Chelsea è stata una partita dominata dal Barcellona e una partita nella quale il Barcellona ha giocato come gioca solitamente il Barcellona, non ha segnato perché probabilmente stiamo assistendo davvero a una fase non buonissima della parabola del Barcellona. Contro il Real Madrid invece la squadra forse anche disposta, non tanto disposta, ma con uomini non sempre i migliori al punto giusto da parte di Guardiola, la squadra ha fatto sincera fatica, e la sensazione è che comunque questa sera non sarà facile per il Chelsea rimettere in moto la propria batteria tambureggiante di grande possesso palla e capacità di mettere gli uomini davanti alla porta. Poi anche con Real gli uomini davanti alla porta sono arrivati, perché sia Teglio che Xavi hanno sbagliato dei gol onestamente clamorosi. Però questa mi sembra la cifra del Barcellona di quest'anno, cioè per fare un gol deve produrre 5-6 palle gol molto molto nitide, per carità sono molto bravi a produrle. Però, ripeto, in tutta sincera onestà, ogni tanto si ha la sensazione che questi abbiano un po' esagerato, cioè stiano sprecando. Certo, certo. Mentre invece con una piccola proiezione, sul Real, mi pare che gli effetti del classico non possano non riverberarsi su stasera e su domani, e quindi se stasera il Barça avrà anche la pressione in più di dover vincere ad ogni costo, di dover passare ad ogni costo per, non dico salvare la stagione, ma insomma comunque qualcosa di simile al loro livello, il Real a questo punto il campionato l'ha vinto, e quindi giù il cappello davanti a un pronostico che non era difficilissimo già sin dall'autunno, ma che ad un certo punto era tornato a essere in forza. Io credo che nessun tifoso blaugrana voglia sentire Mourinho dire zero titoli. Zero titoli vorrebbe dire sconfitta in Coppa del Re, secondo posto in campionato e non vittoria della Champions League. Io penso questo. Se il Barcellona avesse, cioè io credo che il Barcellona comunque pensasse che la Liga non l'avrebbe vinta, sì, comunque anche vincendo al Camp Nou. Probabile. Probabile. Un conto sono le dichiarazioni ufficiali, un conto sono quelle. Quello che ti senti dentro. Esatto. E quindi io credo questo, e con me lo credono in molti. Però se il Barcellona avesse vinto comunque due scontri diretti con il Real Madrid, pur non vincendo la Liga, e avesse vinto o vincesse la Champions League, avrebbe molto depotenziato la vittoria in campionato del Real Madrid. Così con il Real, cioè il Real ha legittimato a casa degli altri, cioè il Real ha preso il titolo al Barcellona, cioè gliel'ha portato via in casa sua. Come no? Come il titolo non è cancellabile da alcuna vita, cioè anche se il Barcellona vince in finale contro il Real Madrid non può rivendicare alcunché sul titolo. Io continuo a pensare che la finale sarà Barcellona-Real Madrid, non credo che il Chelsea questa sera passerà, credo che il Chelsea farà l'impossibile, ha già fatto molto. Pensare che ripeta la stessa partita di Stamford Bridge e che le vada ugualmente bene, per carità, può succedere, ma credo che anche come giustizia del calcio, sarebbe bello che Barça e Real se la giocassero tutta in una partita a Monaco di Baviera. Sì. Io che gli do qualche chance in più invece a Chelsea, perché penso che la partita sua la ripeterà. Bisogna vedere se il Barça ripete almeno quella dell'andata, perché poi non ti può andare sempre così storto. E quindi va bene. Dunque, senti, risulta che Mourinho avrebbe mandato un messaggio di incoraggiamento alla vecchia guardia del Chelsea, ai suoi, a Lampard, a Terry, a Drogba, a Cole, eccetera, eccetera, in vista di stasera. Che è giusto, che è sacrosanto, ci mancherebbe altro, sono stati i giocatori suoi e è ovvio che il Barcellona, pur battuto, non può essergli diventato simpatico. Però c'è una certa contraddizione, mi fa notare Franco Piantarina, nel senso che Mourinho ha sempre coltivato il rumore dei nemici, no? E in questo caso il rumore degli amici potrebbe invece essere controproducente. Di sicuro due partite di fila il Barça non le perdeva dall'agosto 2008 ed era l'inizio dell'avventura di Guardiola. Perse col Wisla Cracovia al preliminare di Champions e poi nella prima di campionato sul campo del Numancia. Il fatto che siano passati quasi 4 anni, qualcosa ma tu ti ricordi, Gigi, che noi ne avevamo parlato di quel periodo, e proprio in quel periodo noi cominciavamo a domandarci se fosse stata scelta la giusta di La Porta di affidare la squadra a Guardiola, e in quel periodo dicevamo che un allenatore che non avesse avuto i trascorsi a Barcellona, probabilmente di fronte a un momento così di impasse, che poi durò ancora un paio di settimane, non di più, può anche essere che altri presidenti con un allenatore di diverso pedigree perdessero la pazienza immediatamente, anche perché il Barcellona quelle partite le aveva giocate abbastanza male. Per fortuna che La Porta ha avuto pazienza, per fortuna che Guardiola era Guardiola, e che quindi ci ha regalato questi 3-4 anni di calcio fantastico. Vero, ma un'impresa, che scrive Stefano da Cracovia, chissà se Cracovia è proprio Cracovia nel senso della Polonia, o c'è un paesino in Italia che si chiama Cracovia di cui non avevo contezza. Dopo aver avuto il Papa, ma magari qualche... Vediamo se Stefano magari in un successivo messaggio precisa questo dettaglio. Comunque dice, un'impresa, ma siete matti, il Barça stasera li polverizza, mio pronostico 3-0, e invece vabbè. Il Real avrà qualche problemino domani, visto che lei chiama la Cracovia e quindi tu hai ricordato... Personaggi Cracovia, Dio l'ascolti, caro Stefano. Ma... Sì, però secondo me ci credo. Paio d'Ave Maria comunque. Ci credo, personalmente ci credo pochino. Senti, no, una notiziola brevissima, vi facciamo l'intervallo. Una notiziola brevissima è che Abramovic, secondo il Daily Mail, ha fissato un premio di 10 milioni di sterline per squadra e staff in caso di vittoria della Champions. Dunque, ogni giocatore del Chelsea incasserebbe 350.000 sterline, che vuol dire 420.000 euro, che per carità insomma, è un discreto additivo, diciamo. Potrebbe servire, ecco, a motivare ulteriormente. Sì, non stiamo parlando di gente che ne ha particolarmente bisogno, in alcuni casi, però certo. Non guasta. No, anzi. Primo intervallo, strade. È chiaro che potremmo continuare all'infinito su questa vigilia, su questa doppia vigilia, ma invece io mi sposterei su quello che nel frattempo è già accaduto. Stiamo assistendo in due campionati ad altrettanti suicidi progressivi, possiamo dirlo, perché insomma il Milan qui ha lasciato 3 punti alla Fiorentina e poi 2 al Bologna, quindi ha fatto 1 punto su 6 in casa contro queste due partite, in casa sottolineo, ma non è da meno lo United, mi pare che è ancora davanti di 3 anziché inseguire a -3, ma insomma, sta rischiando seriamente di buttare un campionato che aveva praticamente vinto. Sì, soprattutto perché chi veniva da dietro aveva rallentato pesantemente, venendo battuto dall'Arsenal e poi con una partita veramente pessima da parte del City, con tutte le vicende Balotelli e quant'altro. Ora, la vicenda Balotelli è completamente dimenticata, nel senso, io credo che i tifosi del City in questo momento non vogliano neanche sentirlo nominare, perché la squadra comunque da quella partita lì ha cominciato a volare. Alla fine ha avuto ragione Mancini ad andare a Canossa a riammettere Tevez sta diventando un grande fattore. Tevez, Nasri, Silva stanno andando, giocatori molto leggeri, soprattutto Nasri e Silva, che in questo momento stanno venendo fuori alla grande. È molto strano questo rallentamento del Manchester United, che è una squadra che è sì formata da molti giovani, ma che comunque nella spina dorsale ha della grande esperienza, perché comunque il peso di Ryan Giggs, di Paul Scholes e ovviamente di Sir Alex Ferguson è un peso che non può non riverberarsi anche sulle menti giovani di altri giocatori. E poi io non cito giocatori come Carrick, come Park, come Rio Ferdinand e quant'altro. E, a questo punto il Manchester United paradossalmente non è più favorito nonostante stia avanti di 3 punti. Io non sarei così sicuro che lo United perderà anche il derby domenica, anzi è il derby di lunedì, si giocherà lunedì prossimo, però il Manchester City in questo momento ha il vento nelle vele, soprattutto avendo già vinto la gara d'andata, avendo più 6 differenza reti, nel caso andassero in parità avrebbe un nettissimo vantaggio. È anche vero che poi negli ultimi 180 minuti il City deve giocare contro 2 squadre, una satanata per la salvezza come il QPR e una che vuole andare in Champions come il Newcastle, mentre invece lo United gioca 2 partite apparentemente tranquille. Però sinceramente che perdesse con Wigan e che pareggiasse 4-4 in casa dopo essere stato in vantaggio 3-1 e 4-2, sinceramente sono segnali, cioè se Ferguson vince anche questo, onestamente io trovo che c'è il monumento che gli hanno già fatto, sì. Gli devono fare anche un altro. Il signore degli scudetti merita, o sì. Come si chiamano in Premier League, insomma, merita un piedestallo un pochino più alto. Senti, sì. Oggi chiuderei, se sei d'accordo, con questa curiosità diffusa proprio da Sky, dai tuoi cugini, proprio da Sky Sport Inghilterra, che ha ricavato dai siti ufficiali, non credo sia andato a misurare, insomma, questa vecchia storia dei campi più larghi, dei campi più lunghi, sì. Eccetera. Allora, secondo Sky Sport Inghilterra, risulta anche dai siti ufficiali che il Camp Nou è regolarissimo, e cioè 105 metri per 68 e quindi è in pieni parametri UEFA, mentre invece Stamford Bridge è 103, quindi 2 metri meno per 67, 1 metro in meno anche di larghezza. Allora si sono divertiti a misurare i metri quadrati di differenza, sono 239 metri quadri. È un bel bilocale ampio, sì, facciamo anche quei tripli servizi e si domandano gli inglesi se questi 239 metri quadri in più saranno un problema per difendere l'1-0 stasera. Ma secondo me sono stati un problema per il Barcellona all'andata in generale. Stamford Bridge a occhio è più piccolo del Camp Nou, ma non perché sono più piccole le tribune, perché lì ci arriva chiunque, ma la netta sensazione, ti ripeto, a occhio. Poi non dobbiamo farci tradire dalle telecamere da questo punto di vista, perché dipende molto da come vengono inquadrate le partite, inquadrati i campi dalla regia. Bisogna vederli a occhio. Io trovo che sia un problema assurdo, cioè nel senso che stiamo parlando di un lavoro di un quarto d'ora a mettersi a misurare la lunghezza e la larghezza del campo, e sto anche largo, perché forse ci si mette anche un po' meno. Quel che è certo è che il Camp Nou sembra a tutti molto più grande, però evidentemente è nei parametri giusti. E ripeto, Stamford Bridge sembra molto più piccolo. A sto punto io una misurata gliela darei. Però, perché non guasta mai. Dici. Direi di sì. Fabio, io resterei che, certo, mercoledì sera c'è anche campionato e quindi giovedì sarà, esatto, soprattutto, però forse giovedì un punto della situazione, magari sintetico, su questa doppia sfida di queste due serate credo che potrebbe essere opportuno. Grazie. Come vuoi, Gigi, ti dico solo che una cosa curiosa, non so se qualcuno te l'ha chiesto, ma a me arrivano in tanti che me lo chiedono. Si domandano perché la UEFA abbia la primogenitura dei martedì e dei mercoledì, nel senso che l'UEFA c'è campionato italiano in questo martedì e mercoledì, ma non c'è sovrapposizione, mentre invece gli inglesi un paio di volte hanno messo le loro partite. La verità è che l'UEFA non può obbligare da questo punto di vista i campionati a non avere sovrapposizione. È un agreement abbastanza normale che aiuta sia le leghe che le federazioni che l'UEFA che le televisioni, perché è evidente che se si può appena appena spalmare meglio, oltretutto in un 25 aprile che è una giornata di festa, certo. Ma soprattutto perché la Football Association se ne frega, cioè la Football Association pensa soprattutto a se stessa, e quindi nei calendari si arroga il diritto di mettere le partite come vuole lei. In effetti, ad esempio, il Chelsea non è contentissimo di aver giocato con il Tottenham, ma molto dopo rispetto alla partita giocata dal Barcellona, proprio perché la federazione, cioè la Lega inglese, generalmente decide motu proprio dell'UEFA, e l'UEFA viene dopo, mentre invece negli altri grandi campionati c'è questo agreement nei confronti della UEFA, e diciamo che è l'ultimo avamposto della grandeur britannica, l'International Board e questa cosa della Football Association. Esatto, l'impero delle Indie è andato, però queste due cose le mantengono. Sì. Interessante. Di colonia, È interessante che sapere che non è contrattuale questa cosa, ma che è semplicemente frutto di un accordo, diciamo, pacifico, insomma. Esatto. Grazie Fabio. A te, saluti a tutti. Allora, chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24. Eccolo qua, Cracovia. L'ascoltatore ha chiamato a Cracovia. Sì, è vero, Cracovia è in Polonia. Vivo qui da circa 2 anni e mi sorprende sentirla così pessimista sul Barça, ma staremo a vedere. Non è pessimismo o ottimismo, è realismo, secondo me. Io credo che più una squadra è perfetta, il Barcellona in questi anni certamente lo è stato, si è avvicinato, e più nel momento in cui il granellino di sabbia o qualcosa di simile lo destabilizza, o comunque entra in quel meccanismo perfetto, più quel meccanismo si grippa con maggiore facilità. Mi sembra che questo sia un pochino il momento in cui questo sta accadendo, può darsi che mi sbagli. Notizia non inedita, però i giornali ho visto che l'hanno pubblicata con scarsa rilevanza, secondo me invece era una notizia a cui andava dato molto ma molto più spazio. Qual è? È questa, la leggo dall'Ansa, è di ieri sera: vetri spaccati, carrozzerie ammaccate, gomme squarciate, è la scena che l'intera squadra del Latina, staff compreso, si è trovata ieri nel senso di domenica notte al ritorno dalla trasferta di Piacenza. La denuncia arriva dall'associazione dei calciatori. Il club laziale, terzultimo nel girone B di Lega Pro, tornava dall'1-1 ottenuto in Emilia, per l'appunto sul campo di Piacenza. Quando il pullman della squadra è arrivato allo stadio, reduce da questa lunga trasferta, tecnico, giocatori e staff hanno trovato le rispettive auto sfasciate e messe fuori uso dagli ultra locali. Cos'è successo? È successo quello che si diceva ieri, quello che mi ero permesso di dire ieri, cioè che nel circuito delle menti malate l'impresa di Marassi non poteva che fare da propellente, per cui, avendo visto in TV questi ultra genovani spadroneggiare a quella maniera, qualcun altro, ha fatto spese quelle di Latina, purtroppo per loro senza l'onore della diretta TV, però hanno dovuto obbedire all'istinto di emulazione, e questo per esempio è stato un risultato. L'Assad ha chiamato da Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno signor Ganzini. Voglio sapere il suo parere, cosa gli pensa stasera, se è un Camp Nou asciutto e un Messi al top della serata. Penso che non c'è problema per eliminare questo Chelsea, e poi per Alcantara al posto di come vice Pirlo l'anno prossimo, se dobbiamo giocare Champions League e campionato l'anno prossimo. E grazie, e l'ascolto per radio. Beh, Thiago Alcantara non so, molto molto dipenderà da Guardiola, se resta, se va via, da che progetti farà il Barcellona, ma tutto dipende appunto da stasera e poi eventualmente dalla finale, cioè da che Barcellona esce da questa stagione. Messi non credo che possa essere al massimo, perché ha problemi agli adduttori e lo si è visto entro certi limiti nelle ultime due partite, perché è Messi, ma certo non è stato decisivo, è stato brillante a tratti, ma non è stato il Messi decisivo dei suoi momenti topici. Quindi dire che sia protagonista stasera, gli auguro di essere guarito e di essere al meglio, ma in 3 giorni dopo aver giocato in altri 3-2 partite tirate come quelle col Chelsea sull'acqua per giunta, e poi col Real, e perdendole tutte e due, che sono le sconfitte che fanno male e non agevolano il recupero fisico e psichico, non ne sarei così convinto. Gliel'auguro di sicuro. Luca, provincia di Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo parlare del Milan, della situazione del campionato. Sì. Volevo dire, mi sembra che i tifosi del Milan siano un po' troppo depressi ultimamente. Mi pare che la stagione del Milan tutto sommato non sia così da buttare, perché in Champions League ce la siamo giocata comunque con la Barcellona, in Coppa Italia siamo quasi riusciti a rimontare la Juventus e quasi arriviamo in finale, in campionato ce lo stiamo giocando, non siamo distaccati. Ce lo stavamo giocando, Luca, mi sembra. Ce lo stavamo giocando, vede, però sono tre quasi. Sono tre quasi, no? Quasi ce la facevamo, dice lei, e io dico quasi il Milan ce la faceva ad arrivare in finale di Coppa Italia, ma non ci è arrivato. Quasi ce la faceva a vincere il campionato e invece non l'ha vinto ed era nettamente favorito alla vigilia e lo perde da una squadra che era un outsider alla vigilia, poi si è rivelata protagonista, per carità, ma insomma non a punteggi tali da dire beh è arrivata una che ci ha impedito, no? Cioè che era talmente troppo forte di. Era forte, ma molto forte la Juventus, molto più forte del previsto, ma non stiamo parlando di valori assoluti. Sulla terza è vero, è uscita dal Barcellona, mi sembra che sia quella da cui si può consolare più rapidamente delle tre delusioni. Però è anche vero che il Chelsea invece sta rischiando molto più seriamente del Milan di potercela fare, e quindi anche lì non so quanto serenamente venga vissuta, no? Questa tripla sconfitta, non dico assolutamente fallimento, ma sconfitta certamente sì, perché è nei fatti. Le dimissioni di Panucci. Cristian Panucci, agenzia appena battuta, responsabile dell'area tecnica del Palermo, si è dimesso, notizia ufficializzata, anche se era già nell'aria. Alla base della decisione dell'ex terzino di Milan, Inter, Roma e Real Madrid, si legge sul sito del Palermo, ci sarebbe scusate, un'incomprensione dovuta a dichiarazioni del presidente Zamparini riportate in maniera erronea da alcuni organi di stampa. La società prende comunque atto della decisione di Panucci con vivo rammarico e lo ringrazia per il lavoro svolto in questo breve periodo, giorni numero 34, ma d'altra parte scommessa questa che non valeva, io non credo che i bookmaker l'accettassero, no? Al di sotto al di sotto di un certo periodo, insomma, al massimo se poteva scommettere sul mese, sui due mesi, sui tre mesi, ma non considerato anche il caratterino di Panucci, non credo proprio che potesse avere quotazioni più alte. È così sicuro? Domanda Andrea da Como, il campionato sia finito? Mancano ancora 15 punti e la Juve ha dimostrato di soffrire le squadre piccole. Sono arci sicuro, Andrea. La Juve ha dimostrato di tenere le squadre piccole, ma in una fase in cui le squadre piccole ancora, cioè nella fase ascendente del campionato, quando ancora sperano di salvarsi. Le prossime due, Cesena e Novara, per esempio, speranze di salvezza non ne hanno più, quindi non voglio mica dire che si arrenderanno o che faranno porcherie, dico soltanto che non hanno più le motivazioni, la spinta e tutto il resto che potevano avere all'andata, quindi già queste due partite vanno così. Poi mi pare ci sia Lecce, che è l'ultimo ostacolo, quello sì abbastanza duro, ma la Juventus lo affronta in casa. E comunque, se anche dovesse perdere punti lì, resterebbe comunque davanti, perché resterebbe davanti in caso proprio estremo di sconfitta, resterebbe davanti nel senso di a pari punti, ma davanti per il confronto diretto. Nel frattempo, secondo lei, il Milan, questo Milan fa 15 punti su 15? Boh, io qualche dubbio ce l'avrei. Emanuele Milano, buongiorno. Buongiorno, due considerazioni e una domanda veloce. E la prima è, vedendo i fatti di Genova domenica, la prima cosa che mi è venuta in mente era pensare, cioè ho pensato al Newcastle 4 anni fa, credo, no? Quando retrocesse, e avendo una squadra, voglio dire, a livello secondo me di questo Genoa, e vedere i tifosi, no, che lo applaudivano l'ultima giornata, mentre vabbè abbiamo visto purtroppo quello che è successo. È successo, è successo anche domenica, ricordavo ieri, al Wolverhampton. Wolverhampton domenica, perdendo la City, è retrocesso, e i giocatori, il pubblico ha applaudito a lungo la squadra, l'ha salutata e gli ha dato appuntamento a un altro anno. Seconda cosa veloce, il Milan, molti dicono che è un Ibra dipendente, secondo me ha dimostrato in queste ultime partite di essere molto Thiago Silva dipendente, e per questo penso che Allegri abbia un poco più di responsabilità rispetto a quelle che gli si danno sugli infortuni, perché finché si infortunano 20 giocatori, ok, quando ti si infortuna un giocatore forse vale per 15 a livello proprio questo Milan. Qui 15 tanto per esagerare, no? Comunque Emanuele, se lei mi parla di altre responsabilità di Allegri, io posso condividere o meno, ma insomma ne possiamo parlare. Se lei mi parla di Thiago Silva, no, perché in una decisione del genere così rischiosa alla vigilia di Milan-Roma e con il Barça alle porte e con tutto il ciclo che aspettava il Milan, quella è una decisione in cui Allegri può avere un 33% di responsabilità, ma non di più, perché in situazioni di quella gravità, insomma, di quell'importanza, di quel peso, e con un giocatore come Thiago Silva, io credo che decidano insieme allenatore, medico e giocatore. E quindi vogliamo fare 34? Esageriamo, ma scaricare sulle sue spalle la colpa, che Allegri possa aver preso Thiago Silva e dirgli tu giochi comunque, qualunque roba dica il medico e qualunque roba dica tu, e che questo possa valere per qualsiasi altro allenatore bravo e responsabile in giro per il mondo, lo escludo in partenza nel calcio moderno. Antonio Catania, buongiorno. Buongiorno dottore Garantini. Volevo dire una cosa, per quanto riguarda la tenuta atletica, io sono milanista, mi vuole dire che la Juventus in questo, diciamo, è stata molto brava. Anziché lamentarsi, per esempio, Allegri e Company, perché non copiano, diciamo, i modelli atletici della Juventus? Perché se il Milan sarebbe arrivato alla finale, cioè col Barcellona, con la stessa tenuta atletica che aveva la Juventus, noi non perdevamo quella partita. Quindi a questo punto adattatevi ai metodi migliori. E cosa fa una squadra? Si mette ma lei pensa che una società come il Milan, ma come la Roma, come l'Inter, come la Lazio, come qualunque società oggi, lei pensa che debba copiare un modello atletico di un altro per poter correre? Io non a queste mancanze di rispetto della professionalità di società di quel livello non posso pensare. Non si tratta di copiare o non copiare, si tratta di avere ciascuno un proprio modello che quasi certamente, ma certamente è adattato e dettagliato su misura per l'età, le caratteristiche fisiche, eccetera, i giocatori. Oggi non c'è più l'allenatore come era un tempo. Io torno sempre ai tempi di Rocco, lo sapete che sono un po' monomaniaco, ma insomma, non è come un tempo che Rocco, piuttosto che Herrera, piuttosto che Pesaula, dovevano a occhio valutare se quel giocatore era in forma, se era il caso di farlo riposare o meno, al massimo una battuta del medico. Oggi sono degli staff impressionanti, l'allenatore di oggi è il direttore di uno staff, dove c'è anche il mental coach, faccio per dire, che non è un dentifricio, è quello che si occupa dei cervelli anziché dei muscoli o dei tendini dei giocatori, quindi non credo che sia abbastanza mal posto come osservazione questa. Sentirei ancora un ascoltatore e poi magari un paio di vocette. Momento, subito, perché Franco Piantanida mi ha preparato la chicca, lui ha di questi vezzi. 21 marzo, l'elogio di Zamparini a Panucci. Senti, questo me l'ero perso, non avevo letto bene la scaletta e chiedo scusa. Allora, Zamparini su Panucci, giorno 21 marzo. Per cui non c'è niente di eclatante, è un'operazione normale. Cristian ha 38 anni e io ho sempre creduto moltissimo nei giovani. Cristian è un campione, ha dell'esperienza con tutti gli spogliatoi migliori d'Europa, sia italiani che stranieri, ha esperienza di internazionale, ha nel suo DNA quella sicurezza, quella onestà e quella trasparenza, l'avete visto anche in televisione, ecco perché mi aveva molto colpito, sia di pensiero che di obiettività, che mi ha fatto scegliere, oltre che campione, anche l'uomo. E io mi aspetto da lui tantissimo. Non ha dato poco in questi 34 giorni. Andrea, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Io mi ricordo che quando ero più piccolo, tipo 20 anni, così, andavo sempre nella curva dell'Inter. E mi riferisco poi di conseguenza ai fatti di Genova. Vorrei dire che girano di quei personaggi nelle curve che non è che ce ne sono solo 10 o 20, cioè almeno metà dei personaggi che ci sono all'interno delle curve sono delinquenti, le classiche compagnie di ragazzi che vanno in giro e fanno. Quindi io credo che l'unico metodo per ovviare a questo problema sia chiudere le curve, evitare che quella gente vada lì, e quindi destinare le curve, non so, alle famiglie, creare dei pacchetti speciali o cose del genere, perché su 1000 almeno la metà, cioè chi dice che sono i soliti 10, 20, 30 persone, sono frottole. Andrea, però mettiamo in ordine, mettiamo un po' d'ordine sui numeri. Allora, se lei mi dice che non sono solo 10 o 20, sono d'accordo con lei. Se lei mi dice la metà di una curva, no, una curva a San Siro, insomma, vado a spanne, ma 10 o 15 mila persone le tiene sicuro. Escludo che ci siano la metà dei delinquenti, ha detto lei. Questo mi sento completamente di escluderlo, ma vale per qualsiasi curva, intendiamoci. Non sono così pochi come si tende a minimizzare, non sono così tanti come tende lei ad esagerare. Dopodiché, certo che un calcio ben diretto, un calcio ben gestito, un calcio che avesse voglia di sopravvivere e non di arrendersi e non di arrendersi, lasciamo stare a questo, a chi, a che cosa, avrebbe già nel frattempo studiato misure, per esempio come quella da lei suggerita. Certo con l'aiuto dello Stato poi, perché questi signori bisogna tenerli fuori poi dalle curve, e tenerli fuori dalle curve non è esattamente una passeggiata, nei primi tempi, no? Poi ci si arriva, ci si riesce. Non, è sempre mancata la volontà, si dice la volontà politica, no? Lasciamo stare se è politica o meno, è sempre mancata la volontà di andare, la capacità di andare fino in fondo, e mancherà anche stavolta, non creda. Giorgio, Roma, buongiorno. Salve, buongiorno, dottor Garanzini. La prima era una domanda molto diretta per quanto riguarda il Napoli, con suo illustro parere. Questo Napoli che perde Vidal per poi dirottarsi su Zemail per la differenza di ingaggio, diciamo, anche se abbastanza sostanziale, perché l'uno prendeva mi sembra 1,2 milioni e l'altro 2,2 milioni, ma una squadra che vuole vincere perde Vidal quando si sapeva che questo era un centrocampista di un livello fortissimo, poi nello stesso tempo, a dicembre, che aveva bisogno di un difensore centrale di un livello superiore agli attuali che hanno in organico il Napoli, e vira su Vargas per poi tenere Pandev in panchina. Non le sembra che ci sia un po' di incompetenza e un po', diciamo, di poca visione di quello che poi sono gli obiettivi reali che il Napoli si pone? No. E poi un'altra considerazione, poi chiudo e la faccio giustamente. La Juve è stata un po' sottovalutata, perché spesso io la sento quotidianamente quando si dice che il Milan tecnicamente sia più forte, ma il centrocampo della Juve, io penso che in Europa pochi hanno il Pirlo, Marchisio, Vidal e tutti i cursori che ha la Juve, da Pepe, Lichtsteiner, De Ceglie, ma anche la stessa difesa. Penso che sia una difesa che ha un mix tra tecnica, potenza, aggressività. Io non credo che il Milan... Tecnica non esagererei, Giorgio. Potenza, aggressività, esperienza, senso della posizione, eccetera. Adesso tecnica, mi viene in mente Chiellini e non solo lui, e ci andrei un po' pianino. Semmai era sull'attacco, infatti, che si, tant'è vero che in prospettiva la Juventus, per fare un salto di qualità non italiano a questo punto, perché per l'Italia basta questa, ma un salto italiano europeo, sta pensando proprio ai ruoli avanzati, no? ai ruoli d'attaccante. Ma mi intrigava di più la prima delle domande, perché no Vidal e Gemaili? Ma lei conosce una società che non sbaglia le scelte? Io no, non l'ho mai vista. Vidal era un buon giocatore in partenza, è diventato strada facendo un grande giocatore, ma io penso che non l'abbia trattato solo la Juventus e il Napoli, chissà quanti l'hanno trattato, chissà quanti erano incuriositi da Vidal, e poi una c'è arrivata, è stata la Juventus, e ha fatto molto bene, ha indovinato un investimento, ma non per questo. In un mercato frenetico e ininterrotto come quello di oggi non si può gettare la croce a una società perché ha visto un giocatore lasciato andare. La stessa Juventus, che quest'anno ha indovinato parecchie mosse, lei pensi quanti giocatori ha sbagliato a prendere? Il Krasic dell'anno scorso non ne parliamo proprio. Mi dica dove sono Elia, Estigarribia, ma soprattutto Elia e alcuni altri che adesso mi sfuggono. È che nel calcio di oggi le rose vanno fatte con 24-25. Se come quest'anno la Juve ne compri, non so, 5, 6, 7, quanti ne ha presi, e ne indovini almeno 3, 4, sei a posto. Chiaro che il primo che ha indovinato era Pirlo, decisivo, ma Vidal poco meno. altri due o tre li ha sbagliati o comunque non li ha indovinati allo stesso livello, amen. Erano talmente bravi quei due o tre che hanno cambiato la qualità della squadra. Ma gli infallibili non esistono. A sera davanti la Juventus avesse Cavani, scrive Andrea. Che bello invece il messaggio successivo, dice: penso che Lidolm avrebbe preso Abate e gli avrebbe insegnato a fare gli ultimi cinque passi prima del tiro, anche prima del calcio, anche prima del cross, prima della battuta. Questo è un messaggio colto, evidentemente, intanto perché qualcuno si ricorda di Nils Lidholm e poi soprattutto si ricorda di che istruttore è stato per i giovani, perché Lidholm è stato un grande allenatore di grandi squadre e la Roma e il Milan in particolare, ma anche Verona, anche Fiorentina ne sanno qualcosa, ma è stato soprattutto un grande allevatore di giovani ed era uno che i giovani li migliorava proprio da un punto di vista tecnico. Io ricordo, forse l'ho già raccontato altre volte, ricordo di aver visto arrivare al Milan un Tassotti grezzo, ventenne, grezzo dalla Lazio, con grandi potenzialità, ma grezzo, garantisco, e nel giro di due o tre anni di cura Lidholm, averlo visto lievitare, ma soprattutto lievitare dal punto di vista proprio della morbidezza del piede. Andiamo a sentire che cosa Nicola Filippone ha scovato per un 24 aprile. Sembra ieri. 24 aprile 1910. A Vercelli si gioca lo spareggio scudetto tra i campioni in carica della Pro Vercelli e l'Inter. La società ospitante, però, per protesta decide di schierare i ragazzini. La federazione aveva infatti negato il rinvio della partita, chiesto per l'assenza dei calciatori Fresi a Milano e Innocenti, impossibilitati a lasciare la caserma dove stanno svolgendo il servizio militare. Contro una formazione di quindicenni, l'Inter ha gioco facile e si impone per 10-3. I nerazzurri interrompono così il predominio della formazione piemontese, che riprenderà però subito. La Pro Vercelli vincerà infatti i tre campionati successivi. Tempi eroici, più o meno, diciamo pure cosiddetti eroici. Tocca a Maurizio da Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo una spiegazione tecnica da lei, signor Gananzini. Se posso. Allora, riguardo al fallo di Giulio Cesar, che è stato sanzionato con l'ammonizione e il rigore, e quello di Stekelenburg, che è stato sanzionato invece con il rigore e l'espulsione. Non riesco a capire la differenza. La differenza è che in un caso l'arbitro ha visto giusto e nell'altro ha sbagliato, molto molto semplicemente. Perché? Ma ha sbagliato perché tratta in inganno la dinamica. Allora, nel caso di Julio Cesar non c'è da discutere. Il pallone che Lazzari tocca anticipando Julio Cesar va verso l'esterno e in questo caso la casistica non lascia margini di dubbio, è rigore ed è ammonizione, non può essere espulsione. Nel caso di Stekelenburg, Marchisio su Stekelenburg, Marchisio sta andando verso l'interno della porta, anzi addirittura in porta, e quindi la scelta di Bergonzi diciamo che come casistica sarebbe da cartellino rosso. Peccato che Marchisio si fosse toccato, al di là del fatto che poi non è ben chiaro se le gambe le trova Stekelenburg o la cerca Marchisio, ma questo è un dettaglio infinitesimale. Quello che conta invece è che Marchisio va verso il centro della porta e quindi sarebbe da rosso, ma si è toccato il pallone troppo lungo e sono nettamente in vantaggio due difensori che recuperano e quindi sarebbe solo da giallo, e ha sbagliato l'arbitro Bergonzi, e mi pare che tutti lo abbiano pacificamente fatto notare, quindi la differenza è tutta qua. Franco, provincia di Brescia, buongiorno. Bene, buongiorno. Sempre un piacere sentirla e soprattutto parlare con lei. Grazie. Io sono milanista, no? Premetto una cosa, che il Milan l'ha perso lui il campionato e devo fare i complimenti alla Juventus, però io voglio dire due cose. Una, soprattutto su Allegri. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato, se l'è trovato e non si è accorto. Quest'anno ha ripetuto gli stessi errori arrivando con una squadra bollita sia per la Coppa con tanti infortuni come l'anno scorso, e poi soprattutto abbiamo visto la fine che abbiamo fatto, non abbiamo avuto la fortuna dell'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo pareggiato col Bari in casa e perso Palermo, quest'anno invece abbiamo perso con la Fiorentina e pareggiato col Bologna, pazienza. Poi vorrei dire, ma questa Juventus, dato che fino a due mesi fa tirava un'aria che non piaceva, che gridavano tutti che non c'erano santi in federazione, tutto è balle, che poi adesso con che muso si presentino, di fronte a una vittoria che è legittima, per l'amor di Dio, però devono spiegarci che aria tirava prima e che aria tira adesso, dato che il Milan è stato penalizzato fuori e madornalmente da tutte le parti, non domenica, ma guardi con la Juve, guardi a Catania, guardi a Roma, ma ne posso raccontare ancora di più? Ma sì, guardi, siamo qua che pendiamo dalle labbra. Grazie Franco. Rinaldo, chiamato da Roma, buongiorno. Salve Garanzini. Sì. Brevemente volevo chiederle un'opinione su Luis Enrique, che a mio avviso è una persona bellissima, con un alto livello di cultura sportiva, ma dal punto di vista tecnico tattico credo sia l'allenatore più scarso che la Roma abbia avuto negli ultimi 30 anni. Volevo sapere cosa ne pensa. No, mi spiace di doverle dare quasi ragione, ma insomma io credo che valga la seconda, sinceramente, dopo quasi un anno, intendiamoci, non prima, perché prima gli allenatori non si fa gli zamparini o i cellino, si dà spazio, quando si crede in una persona, ci si investe, eccetera, gli si dà la possibilità di dimostrare nel tempo, però il problema è che nel tempo sta dimostrando che è sempre peggio. Insomma, io non posso non tornare a certe scelte di inizio stagione, quando ho cominciato a vedere Perrotta terzino, Taddei terzino, eccetera, e soprattutto dico, e questo l'ho già detto altre volte, che fare quel tipo di gioco così rischioso e così potenzialmente brillante, parlo delle partite fuori casa, senza avere una difesa all'altezza, è suicidio puro. E ripeto, con Zeman si risparmiava e si sarebbero avuti schemi d'attacco certamente più brillanti. Nicolò Rinaldi in regia, Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.